N.E.O. N.E.O. Non avanguardia. Se ti scrivo il mio testo già mi vedi com'è. La differenza del resto non la vedi dove. Dove le mani non arrivano, i miei occhi poi non vedono. È già troppo lontano, baby, già ho capito il metodo. Non riesco a leggere i tuoi codici e crescio. Come fa il mio PC quando ha la RAM a 100. E sta tranquilla che io mi diverto. Mentre pompa questa roba tu stai già nel pezzo. Guardo sotto di me il fondale. Sul fondo J sotto mille collane. N.E.O. falla affondare. Inutile che provi, prova a ricominciare. E me stendi l'anima addosso. Se tu sei già negativa io sarò l'opposto. Con la stessa positività sarò nel posto. Con la lirica divina sei capito a posto. Dai, hey, e ti rivedo a mille parti. Come mille fantasmi che ti seguono sui palchi. E tu già mi segui sopra i palchi. E sei così diversa che mi contrasti. Mi piacerebbe poi rincontrarti. Almeno spreco tempo in più per parlarti. Invece giro giù a pensarti. Distratto poi dalla mia crew dentro i palchi. Mi basta uno sguardo, ho come l'impressione che basta uno sguardo. Ho creato pentatoniche e comunicarlo. È difficile guardarti anche se sto in alto. Perché sto scappando, sai che posso avere tutto quando sto cantando. Sai che posso averti dentro questo impianto. Lascio la mia firma anonima, me ne sto andando. N.E.O. Just fly, running for this, trying to fall to bits when I'm running you. You know, you shouldn't still lie, I'm wasting my time and I'm following you. Just fly, running for this, trying to fall to bits when I'm running you. You lie, shine as a light, I'm wasting my time and I'm following you. And I'm going on, I will fly next to you. And I'm going on, we'll live in this. And I'm going on, we'll live my time now. I say goodbye, goodbye. If you close to me you'll be fine. Yeah. Già c'ho perso la testa come ritmo. I BPM a posto in testa tipo flipper. Ci sto, tanto ormai t'ho scritto. Assomiglianza immagine come mai t'ho visto. E ci ho provato con le rime in una sola nota. E 100 notti poi rinchiusi in quella stanza vuota. Se ci ho provato ad atterrare senza copilota. Ma da solo scendi in fondo, non ti accorgi e perdi vuota. Da un paio d'anni ti sorrido nel buio. Adesso vedo chiaro dentro ogni mio dubbio. Non mi credi, va bene se sono stretto in catene. Ma con le bende agli occhi non ti riesco a vedere. Mi affido all'anima per ricordarti. Non ti tocca il mio pensiero, poi ti vedo a scatti. Su qua, mando indietro i battiti. E giri la clessidra, al mio tempo infrangiti. Se il pezzo d'arte è più grande, ho qualche problema col sofflusso costante. Ti sorridevo sempre che se stavo con te. Ti giuro non ho smesso mai neanche un istante. Non mi senti, non chiami bene il mio nome, ti arrendi. Questa è la tua situazione, mi stendi. Nel nome di questo amore cerco sul palco. Tra tutte queste persone, com'è facile ritrarti. Con la matita in mano perché posso cancellarti. Tu non mi sembri come tanti. La luce dentro me come un flash lampeggiante. Ti presento i miei testi, come vedi. Sono tutti diversi, come li leghi. Sono tanti momenti in cui c'è confusione e non riesco a ordinare gli eventi. Ho dei sogni ricorrenti. L'acqua che mi bagna la fronte e i capelli. Per arrivare in fondo agli alti livelli. E non girare intorno a tutti i tranelli. Vorrei averti in un attimo. Prendi ghiaccio dal tuo cuore e spaccalo. Come freddo questo amore, dai scaldalo. Ma non confondere il mio cuore con l'Artico. Just fly, running for this, trying to fall into bits when I'm running you. You lie, shine as a light, I'm wasting my time and I'm following you. Just fly, running for this, trying to fall into bits when I'm running you. You lie, shine as a light.